Allora, eccoci, pronto, pronto. Achille, ci senti? Sì, sì. Allora, buongiorno. Dunque, descrivici. Buongiorno, descrivici un po' questa situazione di piazza. Facci capire, insomma, qual è il livello di partecipazione, come è stato pensato lo svolgimento di questo sciopero. Diciamo, questo è il primo giorno di sciopero generale proclamato dalle confederazioni del settore pubblico e del settore privato. Adesso mi trovo in piazza Sintagma, in cui è già concluso il corteo del Partito Comunista. Adesso sta arrivando, è arrivato anche il corteo delle confederazioni sindacali. Per il momento la situazione è calma, nel paese proprio non funziona niente, sia il settore pubblico è fermato, sia il settore privato. Nella giornata di oggi hanno aderito anche la confederazione dei commercianti. Per il momento tutto è calmo. Va bene. La gente continua a venire in piazza Sintagma. Va bene, senti, stavamo appunto leggendo che stanno anche provando a dichiarare illegale la continuazione di questo sciopero. Come reagisce di fronte a questo hanno tentativo? Hanno cercato di... diciamo questo riguarda solo lo sciopero dei lavoratori nella polizia dei comuni, nella polizia delle strade. Praticamente il governo ha deciso di fare la costrizione civile, questo significa che se i lavoratori non ritornano al lavoro avranno delle conseguenze che possono arrivare fino al licenziamento. Per il momento non c'è qualche sviluppo perché sono coperti dallo sciopero generale. Penso che si avranno novità da venerdì. Senti, oggi dovrebbe essere varato un nuovo pacchetto di misure dal Parlamento. Addirittura si prevede, insomma, che il contratto nazionale potrebbe profondamente essere discusso. Vabbè, c'è un pacchetto di nuove misure che riguarda sia la tassazione, sia nuovi termini salari nelle pensioni nel settore pubblico. È previsto anche l'abolizione che vogliono far prevalere i contratti a livello individuale o anche a livello di impresa su quello nazionale, su quelli nazionali. Certo, certo, è un po' quello che sta succedendo anche qui. Non c'è tantivo di ridurre il costo del lavoro. Chiaro, chiaro. Senti, il costo senti. Del lavoro, tra virgolette, perché questa è una mistificazione, nel senso che in realtà vogliono ridurre i salari, ecco. In realtà vogliono comprimere i salari, dici? Sì, voglio dire, ridurre il costo del lavoro è un eufemismo. Dire che vogliono comprimere i salari, sì. Chiaro, chiaro. Sì, infatti, tra l'altro, insomma, tra queste misure c'è anche quella di eliminare il tetto minimo salariale, che insomma è veramente una misura draconiana, diciamo. Senti. Sì, poi se si pensa che i salari in Grecia sono tra quelli più bassi nell'Europa. Nell'Europa, insomma, Grecia e Portogallo sono proprio gli ultimi della classifica. Senti, Achille, sono state pensate delle azioni particolari nel corso di questa giornata che saranno svolte da qui a breve? Per oggi no, però per domani è previsto un blocco del Parlamento per far sì che i deputati non possano entrare per votare questo nuovo pacchetto di misure. Ah. Quindi si cercherà proprio di non farli entrare? Sì, si cercherà di farlo. Va bene, quindi domani sarà una giornata ancora più calda probabilmente di quella di oggi. Senti Achille, facciamo così, per il momento ti salutiamo e magari ti risentiamo tra mezz'ora, tre quarti d'ora, e nel caso ci dici se ci sono novità, va bene? Ok. A più tardi allora, ciao, grazie. A più tardi, ciao.